E però, insomma, stipendio pieno, ma solo 15 giorni. Ma trovate molto su questo tema. Ci fermiamo, il GR. 24 mattino. L'intervista. Eccoci qui alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, per l'intervista di oggi abbiamo con noi l'onorevole Flavia Perina. Buongiorno. Buongiorno a voi. È direttore anche del Secolo d'Italia, finiana, sta fronteggiando, come i finiani in questi giorni, delle critiche perché per la votazione dei finiani il sì al lodo Alfano retroattivo e anche per la votazione che ha contribuito a respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Lunardi. Onorevole Perina, è così? O direttore Perina, ci sono delle critiche da parte della base dei finiani? Sì, ci sono molte critiche, questi voti non sono stati bene accolti e credo che queste critiche debbano suscitare una riflessione profonda e anche del nostro gruppo, del gruppo di Futuro e Libertà, perché noi ci rivolgiamo a un pubblico evidentemente che sul tema delle regole uguali per tutti è poco disponibile al compromesso. E allora perché avete votato così? Per esempio su Lunardi è stato secondo lei un errore votare? Su Lunardi è stato sicuramente un voto sul quale si doveva riflettere diversamente e l'errore è stato quello di, siccome su Lunardi si rivoterà, questo non è un voto definitivo, è un voto che ha chiesto un supplemento di atti al Tribunale dei Ministri, si è sottovalutato probabilmente l'impatto di questo voto che in realtà offre comporta un rinvio, si è sottovalutato l'impatto di questo voto che invece è stato preso come un no definitivo che in realtà non è. E sul lodo Alfano invece? Sul lodo Alfano era stata una posizione già annunciata e era stata uno degli elementi centrali del discorso di Mirabello, perché il ragionamento era questo: noi contribuiremo a offrire uno scudo al Premier per tutelare il suo diritto a governare, posto che è stato eletto dagli italiani, e anche in modo da staccare la questione Berlusconi da tutte le questioni che riguardano la riforma della giustizia e avere le mani più libere, sentirci più liberi ogni qualvolta si parla di altri provvedimenti che incidono sulla giustizia. Questo ragionamento probabilmente doveva essere spiegato meglio anche nella circostanza di ieri quando si è votato quell'emendamento. Insomma, lei dice non c'è un cedimento su quei temi, per esempio la legalità, che è la parola più gettonata da Fini su questo. No, io non voglio minimizzare questa situazione. Noi questa situazione ci deve essere utile per farci capire come questo sia uno dei dati centrali dell'interesse con cui ci guardano decine di migliaia, centinaia di migliaia di italiani, e quando ci si accosta su questi temi bisogna tener conto di questo tipo di sensibilità. Anche cose in qualche modo straannunciate come il voto sul lodo Alfano debbono essere costantemente spiegate ed elaborate, perché sennò passa un messaggio sbagliato. Ma Fini e Berlusconi si vedranno? Perché oggi i giornali dicono forse si vedranno tra 6 mesi. Qualcuno pone una questione che sia in realtà una banale rivalità ormai arrivata a livelli molto alti, personale, che crei l'ostacolo per il dialogo. Questa è una tesi assolutamente risibile, anche il tema dell'incontro è un po' un ballon de sé lasciato da Calderoli qualche giorno fa che è sprofondato nel niente. Io non credo che ci sarà questo incontro, anche perché insomma non vedo allo stato su che cosa dovrebbe versere questo incontro. Sì. Cioè non hanno niente da dirsi? Non hanno niente da dirsi, non c'è il tema, no? E là c'era una sorta di uscita a effetto di Calderoli, questa idea del trampolino, ma insomma tutto questo è una versione semplificata della politica, non è che appunto sono due coniugi che hanno litigato e si incontrano e fanno pace. Questo mi sembra insomma una lettura un po' di basso profilo che qualcuno per carità continua a coltivare. In realtà Fini ha cominciato una nuova avventura politica ed è chiarissimo a tutti, il PDL sta ristrutturandosi per tenere e vedremo il proseguo. Un'ultima domanda è sulla questione della riforma della giustizia. Ancora ieri Berlusconi ha detto ci vuole la riforma della giustizia. Qual è l'asticella sotto la quale o sopra la quale non siete disposti ad andare? Non c'è un'asticella perché non c'è un testo, diciamo questi sono appunto annunci in qualche modo propagandistici, secondo me anche forse un tentativo di forzare la mano, e quando ci sarà un testo sarà ben chiaro quali sono le asticelle. Al momento abbiamo appunto questo genere genere di generici appelli serve, lo sappiamo da 15 anni che serve, poi a un certo punto verrà fuori appunto un testo sul quale ragionare. Va bene, la ringrazio per essere stata grazie con noi, Flavia Perina, voglio ricordare, onorevole Finiana e direttore del Secolo d'Italia. Insomma, certo, la base cosiddetta dei Finiani critica e anche con mail dopo i due voti che molti dicono, ma come, avevate detto che lottavate per la legalità, invece non so, sul voto contro per l'autorizzazione a procedere di Lunardi non c'è stato, Lodo Alfano avete votato la retroattività. Flavia Perina ci ha spiegato i perché di questi voti. Noi ci fermiamo, poi parliamo dei rifiuti a Napoli. I rifiuti a Napoli, scene già viste. 800 24 00 24 se volete intervenire, ma soprattutto il tema è il nostro sondaggio da votare su radio24.it. Vi chiediamo, secondo voi sono legittime quelle proteste? Ieri è stato dato l'annuncio definitivo, verrà aperta quella seconda discarica contro la quale si batte la popolazione. E secondo il Mattino di Napoli è già pronto anche l'esercito nel caso ad essere schierato. Insomma, tutto questo non fa prevedere per il meglio, ma ne parleremo tra un attimo dopo la pubblicità. 24 mattino. E allora alle 8:33 minuti parliamo della situazione rifiuti in Campania, perché le proteste sono aumentate, è stata una notte anche di incidenti e scontri, l'ennesima notte, perché c'è stato ormai l'annuncio, è ufficiale, quella è la strada che verrà percorsa, questa nuova discarica contro cui protestano gli abitanti del comune del Vesuviano Terzigno in primo piano si farà. E il Mattino dice è pronto anche l'esercito per l'occasione. Il nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero. Nel quale vi chiediamo, secondo voi sono legittime le proteste della popolazione? Perché magari qualcuno dice c'è già una discarica e poi devono scontare errori della politica. Votate su radio24.it, per ora vi state dividendo, siete un 50% più o meno. 50% di voi dice sono giuste, altre no. Nella notte, come dicevo, ci sono stati dei problemi. Signori, sono il vicequestore, vi do l'ordine di arretrare, per favore. Forza, signori. Scene ormai quotidiane, avete sentito, sono il vicequestore, dobbiamo passare, cioè dobbiamo portare la spazzatura perché la popolazione blocca. A volte in maniera pacifica, a volte la situazione degenera, il passaggio degli autocompattatori che portano i rifiuti alla discarica. E allora io voglio salutare il senatore Cosimo Sibilia, buongiorno, del Popolo della Libertà. Buongiorno a lei. E buongiorno. Anche il presidente della provincia di Avellino. Voglio salutare anche del Partito Democratico il presidente di un'altra provincia di Benevento, Agnello Cimitile. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Senta, presidente Sibilia, io partirei da lei perché lei ha fatto parte, leggo sul Corriere della Sera, di questa riunione ieri con anche il governatore Cesaro, con i parlamentari, lei anche parlamentare del PDL, nella quale, al termine della quale, si è comunicato che questa discarica, questa seconda discarica, si farà. Intanto mi dica, è questa la strada, cioè quella della legalità, come ha detto Caldoro, quella della legge? Assolutamente sì, c'è una legge che indica dei siti dove realizzare delle discariche. Io ho partecipato alla riunione ieri con gli altri parlamentari, ma soprattutto in veste di presidente della provincia di Avellino. Sì. Ricorderà che la provincia di Avellino è stata ed è una provincia che ha rispettato con rigoroso e quotidiano impegno le tappe che portano alla provincializzazione del ciclo dei rifiuti. Abbiamo fatto sì che questa provincia si incamminasse lungo una strada virtuosa e quindi ci siamo fatti carico del problema. Ovviamente quando da un momento all'altro sentiamo che vengono precettati dei luoghi dove portare dei rifiuti, e tra questi luoghi c'è un luogo che è quello della provincia di Avellino, Savignano Irpino, sì. Noi ci mettiamo nelle condizioni di civilmente protestare e ecco. Ricorrere. Ecco, questo è un punto importante, Presidente, perché su questo sia vorrei lei, sia il Presidente Cimitile, cioè mi spieghi qual è la situazione di Avellino, cioè il governatore Caldoro, lo vogliamo ricordare agli ascoltatori, con un'ordinanza ha imposto a tre province, Avellino, Benevento e credo Caserta, qui abbiamo due di questi presidenti, di dire prendetevi un po' della monnezza di Napoli. Ad Avellino lei che dice, la prendete o no? Allora, la provincia di Avellino produce circa il 7% della produzione campana di rifiuti. Nel frattempo, nella nostra discarica sta sversando la provincia di Salerno, che ricordo è al momento senza una discarica. Quindi noi già doniamo diciamo alla provincia di Salerno, diamo la possibilità di scaricare, sì, certo. Diciamo di scaricare dei rifiuti in provincia di Avellino. Quindi la risposta è no, presidente, non li prendete quelli di Napoli. Non ce li prendiamo, se non che fino al 26 ottobre c'è anche la pronuncia del TAR ieri che esclude qualsiasi proroga dopo il 26 ottobre. Ma io domando, se noi dobbiamo prendere 200 tonnellate al giorno e già le prendiamo dalla provincia di Salerno, il 60% dei rifiuti conferiti nella discarica di Savignano Irpino vengono dalla provincia di Salerno, solo certo, il 40% certo. Della provincia di Avellino. Lei dice già date abbastanza a Salerno. E abbiamo dato per il passato con Difesa Grande di Ariano Irpino 1.200.000 metri cubi. No, ma questo è importante da capire, perché vorrei anche su questo il presidente Cimitili, la provincia di Benevento, voi presidente che fate? Qui non è, credo, una questione politica, lei è del PD, Sibilia è del Popolo della Libertà, però insomma è una questione trasversale che riguarda una situazione anche purtroppo di ordine pubblico. Presidente Cimitile, a Benevento li prendete i rifiuti di Napoli? Noi non li prenderemo, faremo in tutti i modi per opporci a questo abuso, a questa azione anche violenta verso la popolazione del Sannio, che civilmente si è comportata fino a questo momento e a cui viene imposto questo ennesimo sacrificio. Non è questione di parti politiche, infatti io sono molto d'accordo con quello che ha detto il presidente della provincia di Avellino, Sibilia. Tra l'altro, guardi, la discarica di cui stiamo parlando, che è coinvolta in questo ragionamento, che è la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, è una discarica a rischio ferro, sulla quale la protezione civile e la stessa regione ne è a conoscenza, debbono essere realizzate con urgenza lavori di consolidamento e di stabilizzazione, altrimenti crolla tutto. E questo è un primo punto. Secondo punto, come il presidente Sibilia, anche nella provincia di Avellino, noi non abbiamo alcuna crisi né emergenza della spazzatura, abbiamo situazione con raccolta differenziata spinta e abbiamo organizzato il nostro ciclo provinciale dei rifiuti, su cui la discarica di Sant'Arcangelo e Trimonte, nel quale la discarica di Sant'Arcangelo è fondamentale. Cioè, però scusi, allora, presidente, seguendo questo ragionamento dovremmo dire, cioè i napoletani o comunque quelli che si trovano in quella situazione s'arrangino, voglio dire, non sono in grado perché noi il nostro contributo di solidarietà l'abbiamo dato, e non voglio ripetere le cose che ha detto Sibilio, perché lo sforzo che ha fatto Avellino è pari a quello che ha fatto Benevento. Ma io dico un'altra cosa: non si può curare un cancro in un punto del corpo mandandolo e aiutandolo a metastasi in tutto il resto. È quello che sta succedendo in Regione Campania. Non possono pensare di risolvere la crisi e l'emergenza, che è crisi e l'emergenza della provincia di Napoli e non della Campania, della provincia di Napoli. Non possono pensare di risolvere quella crisi mandando in crisi l'intera Campania. Questo è il problema. Va bene, diciamo, intanto ripeto, vi state dividendo, cioè il 50% di voi più o meno, anzi il 48%, ora un po' meno, il 47%, insomma vi devo aggiornare, d'altronde continuate a votare su Radio24.it, il 47% di voi condivide le proteste della popolazione, il 53% no, molti magari le condividono anche degli ospiti, adesso lo chiederò perché le responsabilità possono essere della politica. Io ho sentito il sindaco di Napoli, Iervolino, a dire non ci dobbiamo rimproverare nulla perché la differenziata di Napoli è al 19%, e poi nei passati giorni ha detto perché non ci danno i soldi. Io questa cosa veramente fatico a digerirla, ma voglio sentire un paio di ascoltatori, i primi che ci hanno chiamato all'800 24 00 24. Enzo dalla provincia di Napoli. Napoli dove, Enzo? A Quarto, uno dei comuni dove il sindaco mi pare ha detto tenetevi la spazzatura in casa per qualche giorno perché la situazione sennò degenera. Infatti io l'ho tenuta 2 o 3 giorni a casa la spazzatura, e poi puzza, insomma, a un certo punto insomma diventa praticamente insomma irresistibile la puzza anche in casa, insomma. Ha ragione a protestare Enzo la popolazione? Sì, diciamo per un certo qual modo sì, anche perché ecco io abito vicino pianura, praticamente in linea d'aria saranno 2 chilometri insomma da pianura, e ci siamo sopportati una puzza insomma per anni, però vorrei dire una cosa, insomma tutta questa cioè la discarica di pianura satura non dalla spazzatura di Napoli, questa è una cosa, insomma. E la spazzatura di chi? Perché praticamente i rifiuti illegali, ecco, della zona del nord Italia sono venuti a pianura, ma questa è una cosa insomma che è stata abbastanza chiarita. camion sotterrati, insomma. Ho capito, quella però è un aspetto diciamo illegale, che sicuramente illegale c'è, l'ha descritto Saviano in Gomorra, ma insomma poi ci sono tante inchieste. Adesso la discarica parliamo del ciclo normale, quello dei rifiuti che produciamo, no la camorra che fa interrare i rifiuti tossici, insomma parliamo della cosa del ciclo di rifiuti normale, insomma quello di tutti i giorni, ecco. Ma a monte di tutto questo, io non lo so, la colpa può essere soltanto, siamo di una gestione politica di anni, non di adesso. Non è che io sono di sinistra, ma non sono un simpatizzante del Taglietolino. Diciamo tutto questo io adesso sono fermo proprio davanti a un grosso cumulo di spazzatura, per parlare al telefonino. Dove? A Quarto? Sempre lì a Quarto? No, sto a Pianura. A Pianura. Praticamente le posso dire che a questo punto saranno, non lo so, insomma, 50 metri di sacchetti di immondizia. Secondo lei hanno ragione a protestare. Tra l'altro voglio andare a salutare il sindaco di Terzigno che ci ha aggiunto, Domenica Auricchio, l'abbiamo sentita anche i giorni scorsi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Come mai sento il rumore della polizia? Siamo nel traffico, siamo a Roma. No, siete a Roma? No, pensavo fossero la situazione. Senta, sindaco, ma lei nei giorni scorsi ci aveva detto che Berlusconi aveva confermato verrò a Terzigno, e invece no. Perciò siamo qui. Adesso voglio sapere da lui questa decisione scellerata. Cioè, ci sta ascoltando? PDL di Napoli. Sindaco, però, se ci sta ascoltando anche per radio, deve spegnere la radio. Le chiedo, scellerata perché, cioè, qual è la situazione scellerata? Di aprire questa seconda discarica? Perché ormai è ufficiale, mi pare, la notizia. Va bene, questo l'hanno deciso i parlamentari, diciamo, di Napoli. Anche il governatore Caldoro, cioè. Vabbè, il governatore Caldoro è stato all'ultimo minuto. Ieri è stato a Roma, io stavo lì proprio per discutere all'alternativa della discarica. Insomma, questa discarica, però guardi che sa da fare. Tra l'altro con noi c'è anche un altro sindaco, il sindaco di Bosco Trecase, l'Angella. Sindaco, buongiorno. Non so se di Bosco Reale, l'Angella. Senta, lei addirittura ha annunciato esco dal Popolo della Libertà per questa cosa, è vero? Certo, io non posso essere assolutamente complice di una scelta così scellerata. Si sta tentando di compiere uno scempio di natura ecologica di proporzioni veramente notevoli. Insomma, si parla di una discarica che probabilmente diventerà la più grande d'Europa all'interno di un'area protetta, quella del Parco Nazionale del Vesuvio, e che a poco condannerà a morte, con tutte le conseguenze che porterà, tutta l'area vesuviana. Non può essere complice, cioè nel senso esce dal partito. Però una situazione, cioè, però facciamo le informazioni sul traffico, da qui poi voglio ripartire, perché ci si accapiglia e molti ci dicono: ma com'è possibile che sempre e solo l'emergenza rifiuti si è concentrata a Napoli, nella provincia, in questi? Qual è il vulnus? Io temo che, insomma, se ascolterete la trasmissione fino alla fine non avremo una risposta, perché una risposta davvero non c'è a questo. Però vorrei ripartire da qui con i miei ospiti subito dopo il traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora, legittime o no le proteste delle popolazioni di Terzigno e dintorni contro l'apertura della seconda discarica? Per il momento il 47% di voi dice di sì. Voglio sentire Ivano da Brescia. Buongiorno, Ivano. Buongiorno. Che dice? Noi a Brescia abbiamo in pieno centro il termovalorizzatore e anche in provincia abbiamo le discariche. Quando è stata costruita il termovalorizzatore, nessuno si è lamentato, nel senso che era da fare, è un servizio per la città, abbiamo il teleriscaldamento e nessuno ha fatto guerriglia urbana. Anzi, è stato cioè, dice, il problema è questo: quando ci sono le discariche si protesta con le discariche. Se vogliono fare il termovalorizzatore come hanno fatto ad Acerra, ci sono i comitati che protestano per il termovalorizzatore, così il ciclo si intasa, insomma. Se noi consumiamo, produciamo rifiuti, bisogna da una parte sì, buttarle. La ringrazio Ivano, sì, a Brescia effettivamente c'è un termovalorizzatore che funziona molto anche come riscaldamento e fornisce energia alla città. Allora, sindaco Langella, qui la stanno ascoltando perché con ospiti con noi ci sono, sì, il presidente della provincia di Avellino, Sibilia, che è anche senatore, e il presidente della provincia di Benevento, Cimitile, che non prende... rispondere all'intervento, sì, del... Sì, del... Sì. Il problema è questo, il problema non è che qui si è contro le discariche o i termovalorizzatori, gli inceneritori, il problema è la gestione di questi impianti, perché se nel termovalorizzatore arriva un rifiuto secco, quindi un rifiuto trattato, il termovalorizzatore non crea problemi, ma se come oggi arriva un rifiuto con un'alta percentuale di umido, il termovalorizzatore crea grossi problemi alla popolazione. Qua parliamo di discariche, qua non stiamo parlando di discariche, qua sono dei buchi. Dei buchi dove viene tolta tutta l'immondizia dalla strada e viene messa all'interno. Ho capito, ma perché lei non dice è questo il modo corretto di gestire? Ma perché lei quel buco produce problemi alla popolazione che intorno, che giustamente si lamenta. Allora, è una cosa grave, che la Campania da vent'anni che è in piena emergenza, non è riuscita a creare una serie di strutture capaci di trasformare il rifiuto da problema a risorsa. Lei dice il problema, e la ribalto io la domanda, cioè perché gli amministratori, tutti, dai sindaci ai presidenti, dove siete? Allora dica qualcosa a Sibilia e Cimitile che i vostri rifiuti non li vogliono, lei i vostri, in senso... Ma io posso pure capire, il problema qua non è che dobbiamo toglierli e passarli ad un altro, il problema è mettere in campo una serie politica di trattamento dei rifiuti. Il problema è che abbiamo avuto una serie di amministratori incapaci di affrontare, o forse troppo capaci di affrontare il problema, no, sostanzialmente, perché non è possibile che una regione come la Campania, così grande, così importante, abbia un solo termovalorizzatore che dall'altro funziona ad un terzo delle potenzialità. Sì, funziona sì e funziona no. Senatore Sibilia, lei, ripeto, la questione non è solo politica, però ha sentito il sindaco Langella, per esempio, dice: io dal PDL esco perché non posso stare in un partito con un governo che fa questa cosa alla mia popolazione. Lei, senatore, che replica a Langella? Bene, ieri quando è stata organizzata questa riunione, nella riunione del PDL è stato solo, diciamo in un certo senso, deliberato di rispettare la legge rispetto a quello che c'era al momento. È una legge che è stata fatta dal governo, è stata votata dal Parlamento e quindi è una legge che deve essere osservata. Per quanto riguarda la questione discarica, è ovvio che quando si deve realizzare o si realizzerà una discarica, c'è bisogno di avere tutte le garanzie dal punto di vista della realizzazione, appunto, che queste discariche non creino problemi. Ovviamente Però mi scusi, anche il presidente Cimitile, se è ancora con noi, ci ha confermato che la discarica in provincia di Benevento cos'è, a rischio crollo. Cioè, ma com'è possibile che si faccia una discarica che poi manco è una discarica a norma di legge, no? O sbaglio io, presidente Cimitile? Il problema è questo, che qui ci sono responsabilità sicuramente alte e forti della politica, ma qui ci sono responsabilità che sono del mondo tecnico, del mondo imprenditoriale, della società civile, delle connessioni camorristiche. Allora, quando si fa una discarica in emergenza, in un mese, non si può tecnicamente costruire una discarica in un mese, due mesi. Il risultato è che tutte le norme di sicurezza, tutti gli impianti che servono per una discarica che sia fatta come si deve, saltano e si fa quello che Langella chiama un buco, con tutte le conseguenze. Guardi che dove è stata costruita la discarica di Sant'Arcangio, che ci fosse un movimento franoso, noi l'avevamo detto con forza, e poi puntualmente si è verificata. Questa è la situazione. Il problema è grave. Posso fare una battuta, sì, insomma, che in una riunione del PDL si decida di rispettare la legge, è una bella notizia questa. Va bene, adesso la mette Sibilia, adesso la mettiamo in politica. Sibilia, replichi su questo, insomma. Avete detto, ha sentito Cimitile? No, noi abbiamo detto che c'era... Sì, ma ha sentito la battuta, dice che in una riunione del PDL si dica che bisogna rispettare la legge, è una notizia, questo dice. Allora Cimitile, io potrei dire che tutto quello che si sta verificando nella regione Campania è stata tutta una conseguenza della cattiva gestione di governi che non sono stati, infatti, di centrodestra. E così non la finiamo più, insomma. Il problema non si risolve però così. Voglio sentire allora Salvatore da Acerra, dove c'è un termovalorizzatore che lei contesta oppure no, Salvatore? Con contesto. Contesto, ovviamente. Allora, ovviamente c'è la frase, perché vabbè. Ovviamente? Non è che si deve contestare un termovalorizzatore comunque. Allora, lei dice ovviamente, mi dica perché. È un piacere per me parlare con voi stamattina e poter, diciamo, esporre l'opinione di una persona che abita in queste zone. Sì. Io abito ad Acerra, ho visto cambiare il mio territorio da agricolo ad industriale, adesso addirittura come centro di stoccaggio di rifiuti, addirittura della termovalorizzazione. Ho capito, ma dice ovviamente addirittura perché? Cosa ha visto di scempio di questo territorio? Allora, credo che la discussione che stiamo facendo oggi debba partire da un'analisi del territorio e di quello che è stato fatto in precedenza. Noi stiamo parlando oggi di problemi che si sono presentati già 2 anni fa, 3 anni fa, uguali. Sì, sì, è certo. In questi 3 anni... che cosa è stato fatto per evitare che si ripresentassero i problemi? Sono state aperte soltanto nuove discariche, che sono nuovi buchi dove poter mettere i rifiuti, senza differenziazione, indifferenziati, e quindi dei buchi dove lì dentro ci vanno a finire copertoni di macchine, batterie, lampadine, tutto di tutto. E poi, c'è il termovalorizzatore di Acerra che funziona più o meno. Insomma. Allora, il termovalorizzatore di Acerra non sta funzionando per bene, e poi, secondo me, che comunque diciamo, ho analizzato la situazione, ho fatto parte dei movimenti in questi anni, sì. La termovalorizzazione non è la soluzione, perché se l'obiettivo è quello di produrre energia, l'energia lo produciamo con l'eolico e con il fotovoltaico, non c'è bisogno di bruciare i rifiuti. Se è quello di smaltire i rifiuti, la soluzione non è la termovalorizzazione, ma è la differenziazione. La differenziazione. Però il sindaco Iervolino a Napoli dice che sono al 17, 19% e sono in linea, a Roma al 20%, e quindi dice siamo come Roma, solo che sta di fatto che a Roma non c'è la situazione che c'è a Napoli, o meglio a Napoli nel napoletano disastrosa. Io però mi devo fermare ringraziando tutti, il presidente della provincia di Avellino Sibiglia, della provincia di Benevento Cimitile, sindaco Gennaro Langella di Bosco Reale, anche il sindaco di Tarsigna Auricchio. Ci fermiamo qui e vedremo e speriamo la situazione non degeneri. Grazie anche ad Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè in regia. La linea va a Oscar Giannino, noi ci troviamo domattina alle 7:20.